Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, iniziamo dalle borse, vanno bene. E oggi, così rispondiamo anche a chi ci chiede: ma perché non dite mai che Milano va peggio delle altre borse europee? Non è sempre vero. Per esempio, oggi Milano va meglio, più 1,6%. Francoforte guadagna lo 0,80%, come Parigi, Londra più 0,90%, l'America più 0,6%. Anche l'euro è in leggero rafforzamento, a 1,37 nei confronti del dollaro. La sterlina britannica, visto che di questo oggi ci occuperemo, è a 0,90 nei confronti dell'euro. Non è, devo dire, un livello, a mio avviso, così debole della sterlina britannica. Il ragionamento è un altro: c'è molta incertezza anche di carattere politico in Inghilterra, ma ne parleremo tra qualche minuto. Ancora, dicevamo, per quello che riguarda i titoli oggi, molto bene i bancari, alcuni bancari soprattutto, mi riferisco a Unicredito più 4,3%, e poi nel mondo assicurativo Fondiari Assai più 3,75%, Banco Popolare più 2,60%, Unipol più 2,2%, Intesa più 1,90%, Popolare Milano più 1,4%, Generali più 1,2%. Il miglior titolo in assoluto, CIR più 4,5%, e poi Geox più 2,90%, oltre ai bancari e gli assicurativi anche Buzzi Unicem più 2,70%, Bulgari più 2,5%, e poi Saipem, anzi Fiat più 2,2%, Saipem più 1,80%, Tenaris più 1,70%, A2A più 1,4%. Chi guadagna, chi perde? Parmalat meno 1%, Terna meno 0,70%, Luxottica meno 0,40%. Allora, di Fiat parleremo anche a breve, ma poi faremo un collegamento più avanti, perché oggi da Ginevra, dal Salone dell'Auto, il numero uno Sergio Marchionne ha detto per la prima volta, bisogna di capirci, di fronte alla domanda: è ipotizzabile uno spin-off, ossia una separazione tra la divisione auto di Fiat e il resto del gruppo Fiat? Ha detto: ne parleremo in Consiglio di Amministrazione il 21 aprile. E questo non è un no, è un ne parleremo. Ecco perché poi il mercato a questo punto va a scommettere o che ci sia un'ipotesi seria di uno spin-off, di una separazione. Ancora tra i temi, oltre a Fiat e al rapporto di cambio, debolezza della sterlina, situazione politica in Gran Bretagna, indebitamento complessivo della Gran Bretagna, ci occuperemo oggi anche del dibattito che è ancora in corso all'assemblea annuale della UIL tra il ministro Tremonti e il leader del PD Bersani. È un dibattito tutto economico, ecco perché abbiamo deciso di farvene ascoltare in assoluta par condicio, ci mancherebbe, alcuni passaggi dopo le 18, quando dovrebbe essere concluso, perché si parla di tasse, di riforma fiscale, di tenuta del sistema economico italiano, di iniziative, di politica industriale. Insomma, vale la pena ogni tanto anche ascoltare le proposte e i dibattiti senza grossi filtri, se non quelli della nostra selezione. Ancora, per quello che riguarda i temi di oggi, sempre dal congresso annuale della UIL, ma questa mattina sono arrivate alcune dichiarazioni sull'articolo 18 e le sentiremo sia dal ministro Sacconi che da altri leader sindacali. Ultima cifra: 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Petrolio stabile a 80 dollari al barile. E allora, dall'America arriva una buona notizia sui licenziamenti, ossia a febbraio sono state licenziate 42.000 persone, però il dato è in calo del 77% rispetto a febbraio del 2009 ed è il livello più basso quanto al numero di licenziamenti in un mese negli Stati Uniti dal 2006, dal luglio 2006, quindi da ben prima che scoppiasse e deflagrasse la crisi finanziaria e poi economica e poi occupazionale. La Grecia, e adesso vi arriveremo. Comunque, nuove misure annunciate oggi dal governo greco, valgono 4 miliardi e mezzo di euro e prevedono il taglio della quattordicesima, il 60% in meno della quattordicesima in busta paga per i greci, e anche della tredicesima, 30% in meno. Ora io dico, immaginate cosa capiterebbe in Italia se si dovesse operare un taglio della quattordicesima per chi ce l'ha, penso per esempio al mondo dei bancari, e della tredicesima del 30%. E poi aumento dell'IVA sulle imposte per alcol e sigarette, congelamento delle pensioni e nuova riduzione delle indennità salariali. E il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, ha detto va bene, il piano greco adesso sembra essere più incarreggiata, è credibilmente incarreggiata l'ambizioso programma greco per correggere gli squilibri di bilancio, e ha confermato comunque che i paesi dell'area euro sono comunque pronti a intraprendere un'azione determinata e coordinata per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'intera zona euro. Poi oggi Bruxelles si è dilettata anche sulla strategia 2020, ossia gli obiettivi da qua al 2020. Dico dilettata perché con questa situazione è ancora molto incerta, di ripresa fragile, lenta, insomma, dilettarsi sul 2020 così, mi sembra un esercizio così accademico. Comunque l'obiettivo è arrivare al 75% di tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni, aumentare al 3% del PIL dell'Unione Europea le risorse investite in ricerca e innovazione, ridurre del 20% le emissioni di CO2, abbassare a meno del 10% la quota di giovani che abbandonano la scuola e portare almeno al 40% il numero dei diplomati o laureati, e 20 milioni in meno di persone a rischio povertà. Sono 5 obiettivi. Auguri. Mi hanno subito corretto, i bancari hanno 13 mensilità, chiedo venia, mi risultava, lo dico subito prima che iniziate a inondarmi di sms, mi risultava che avessero 14 mensilità. Comunque ci sono categorie professionali che hanno 14 mensilità, l'esempio però era sulla Grecia. Andiamo avanti, una notizia per l'Italia. Oggi World Economic Forum ha scelto nel 2010 197 Young Global Leaders, i giovani leader globali. Ebbene, ossia persone che per doti professionali, impegno nella società e potenziale daranno e stanno dando contributo al futuro del mondo. Sono 197 in tutto e lo dico a chi sta scrivendo, okay, abbiamo detto i bancari non hanno la quattordicesima, hanno un premio produttivo, è la stessa cosa che hanno delle volte anche i giornalisti, immaginate se avessero tagliato quello del 60%. Andiamo avanti adesso, per favore. Dicevo, di 197 leader globali, gli italiani sono 3. E chi sono? Sono Davide Serra, che gestisce il fondo Algebris, Marco Magnani, che gestisce managing director di Mediobanca, e Irene Tinagli, ricercatrice all'Università Carlos III di Madrid, nostra ospite più di una volta, perché oltre che essere molto brava, ha anche dati molto forti sul cosiddetto ascensore sociale nel paese, su quanto i figli riescono a migliorare la propria condizione rispetto ai padri. Ne abbiamo parlato molte volte appunto lei ha stessa dimostrato con uno studio che l'ascensore sociale in Italia si è bloccato. Comunque solo 3 su 197, di cui 2, appunto Tinagli e Serra, lavorano all'estero. Ancora, i prescelti provengono da 72 paesi, la classifica è guidata dagli americani con 32 giovani leader globali nominati, segue poi la Cina 13, l'India 12, l'Inghilterra 11, la Germania ne ha 8 e poi la Francia e l'Italia non ne hanno 3 a testa, poi la Spagna e il Belgio 2 a testa. Allora, cosa ho fatto citando il caso della quattordicesima in Grecia? Allora, mi fate notare che i metalmeccanici hanno la quattordicesima e anche per le produzioni, i bancari non hanno la quattordicesima, ma anzi hanno la quattordicesima ma è spalmata durante l'anno, i chimici hanno la quattordicesima, i dipendenti dei fornai hanno la quattordicesima, i fiorai hanno la quattordicesima. Vabbè, l'esempio era, attenzione, se immaginate cosa sarebbe successo se in Italia si fosse ridotto del 60% la quattordicesima e del 30% la tredicesima, come avverrà in Grecia. Adesso la Banca d'Italia e poi arriviamo alle dichiarazioni del Ministro Tremonti che sentiremo dopo. La Banca d'Italia è uscita con un comunicato ancora non preciso, nel senso che la Banca d'Italia, la Consob e l'ISVAP assieme hanno richiamato i consigli di amministrazione e gli organi di controllo delle società quotate in borsa, delle assicurazioni e delle banche, chiedendo maggiore chiarezza nei bilanci. Lo si legge appunto in una nota congiunta di Banca d'Italia, Consob e ISVAP, che sarebbe la Banca d'Italia, la Consob è l'autorità di controllo dei mercati finanziari, l'ISVAP è la Consob per le assicurazioni. Dicono infatti i tre istituti sussistono ancora alcune carenze nelle aree informative che risultano più sensibili all'impatto della crisi. Io traduco, ma traduco a braccio perché è solo un flash d'agenzia. La Banca d'Italia sul fronte bancario, ma non solo quello bancario, delle società quotate, dice: attenzione, dai bilanci non vediamo o temiamo che non sia evidente, riportato in maniera chiara, l'impatto che la crisi ha avuto su alcune voci. Non è una questione da poco, visto che parliamo di società quotate. Insostenibile per Confindustria che le imprese vantino tra i 60 e i 70 miliardi di euro di crediti verso la pubblica amministrazione. Il tempo medio di pagamento in Italia è 130 giorni, con punte di 600-700 giorni nella sanità meridionale, contro i 53 giorni di Francia, Germania e Regno Unito. La proposta che spesso è arrivata da Confindustria è di utilizzare questi crediti, almeno che vengano girati sotto forma di crediti di imposta, visto che sono soldi che lo Stato deve alle imprese, potrebbe, diciamo, giraglieli sotto forma di crediti di imposta da pagare, almeno quelli. Vabbè, Tremonti ha parlato di fisco, sta parlando di fisco appunto al congresso della UIL, ripeto, ne parleremo alle 18 perché il faccia a faccia è con Pierluigi Bersani. Ha parlato di fisco, della tracciabilità, di che bisogna coinvolgere i comuni sull'evasione fiscale. Bersani ha detto che il PD è pronto a discutere una riforma fiscale anche domani. Partiamo dai temi del lavoro per poi arrivare alla Gran Bretagna e alla sterlina, perché oggi di lavoro ha parlato, intervenendo al congresso appunto della UIL, anche il ministro Sacconi. Ci sono multinazionali che fuggono dal nostro paese, ma ci sono anche multinazionali che investono. In tutti i casi noi non vogliamo stare a guardare. I tanti tavoli che abbiamo attivato non sono luoghi della mediazione asettica o indifferente. Noi non siamo timidi nei confronti delle multinazionali e ci possiamo spesso interrogare se esse possano contare più dei governi, e qualche volta invero possiamo essere colti da sfiducia e pensare che così sia, ma a ben vedere può non essere sempre così. Io nei giorni scorsi ho concluso un accordo per un'azienda di piccole ma significative dimensioni legata ad un marchio importante che nel nostro territorio aveva e ha conservato il servizio, il customer service per l'intera Europa. Quanto è stata importante la reazione della comunità locale appoggiata dall'intero governo. Ma i casi che sono sotto gli occhi di tutti, dall'Alcoa alla Glaxo, ci vedono impegnati ad utilizzare tutte le legittime leve e in primo luogo a calcolare il dare e l'avere che queste compagnie hanno con il nostro paese. Non abbiamo timidezze, non avremo timidezze nei confronti di alcuno quando si tratterà di difendere il legittimo interesse nazionale. Noi restiamo sui temi del lavoro. Avete sentito il ministro Sacconi dire appunto è importante, quando c'è anche una comunità locale che si mobilita assieme al governo sul tema molto delicato della fuga delle multinazionali che decidono di ricollocare i propri impiegati in aree dove il lavoro costa meno. E poi la riforma delle controversie sul lavoro. Che cosa è successo? Allora, la nuova normativa sul lavoro è un passo dal via libera definitivo del Senato. Prevede tra l'altro che per risolvere le controversie sul lavoro tra dipendenti e appunto datori di lavoro si possono scegliere due strade, quella giudiziaria o quella arbitrale. Addirittura può essere stabilito già dal contratto inizialmente, per cui nel caso di controversie, se uno volesse scegliere la via giudiziaria o quella dell'arbitrato. L'arbitrato vuol dire che non si va dal giudice, ci si mette d'accordo tra le parti, questo per essere proprio chiari chiari. E allora anche nel caso di ricorso al giudice, in caso di licenziamento, si dovrà tenere conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo previsto nei contratti collettivi e in quelli individuali. Insomma, sono nate delle polemiche che il ministro Sacconi ha definito assolutamente strumentali, prova di malafede. Nel senso che il segretario della CGIL, Guglielmo Epifani, ha detto: lo denunciamo da tempo, questo disegno di legge opera una vera e propria controriforma delle basi del diritto del lavoro italiano. La replica oggi a margine del congresso della UIL, a microfono della nostra Chiara Grandis, appunto, del ministro Sacconi. Solo la CGIL cerca di strumentalizzare una norma chiarissima che è da 2 anni all'esame del Parlamento, che è al 4º esame nelle Camere e che prevede soltanto una possibilità in più per il lavoratore di usare l'arbitrato se lo vuole, e comunque non è operativa, lo decideranno i contratti collettivi di lavoro, a cui si fa rinvio. E su questo però è intervenuto anche il segretario del PD Pierluigi Bersani poco fa, non nel corso del dibattito che poi ascolteremo assieme a quello del ministro Tremonti, visto che siamo in par condicio volentieri lo facciamo sentire, e comunque lo faremo sentire comunque volentieri come tutti i leader politici. Pierluigi Bersani sul disegno di legge che sta per arrivare al via libera definitivo sulla nuova normativa nelle controversie sul lavoro. Io vedo una deriva, ma a 360 gradi, attorno alla parola deroga. Noi viviamo sulle deroghe, invece dovremmo vivere sulle regole. C'è da rifare un sistema di contrattazione? Sì, sì. Siamo pronti, discutiamo. Io credo che anche questa divisione fra garantiti e non garantiti non corrisponda più alla realtà. Se uno fa un giro a Piombino, che sarebbero tutti garantiti, se il russo scappa via, non sono garantiti neanche loro. E quindi esiste un universo di vulnerabili nel mercato del lavoro, a cui corrispondere anche con nuovi contratti, con nuove norme. Benissimo. Ecco, detto questo, se qualcuno mi sta proponendo che dalle prossime settimane noi, davanti alla crisi economica, dobbiamo ancora discutere di flessibilità e di costo del lavoro, questo è un marziano. Non capisce qual è il problema. Il problema non è questo, anzi si può dire che sia il contrario di questo. Il lavoro è troppo poco remunerato, non ci sono soldi in tasca per chi ha bisogno di spenderli, i consumi non girano. Cioè, cerchiamo di andare al dunque della questione. Il dunque della questione è l'economia reale. Noi dobbiamo rilanciare la base produttiva di questo paese, creare occupazione. Questo è il punto. Chiunque proponga un'altra priorità sta facendo un danno a questo paese. Questa è la mia convinzione. Così poco fa Pierluigi Bersani al microfono della nostra Chiara Grandis, prima di iniziare il dibattito il faccia a faccia con Giulio Tremonti, netto quindi il giudizio, dice: non è questo il momento, il tempo, con questa situazione, di parlare di maggiore flessibilità nel mercato del lavoro, bisogna mantenere tutelare i salari. Su questo, oltre alla posizione netta della CGIL, sono intervenuti anche gli altri due sindacati. Iniziamo dalla CISL e poi invece da chi faceva gli onori di casa. La UIL, sempre al microfono della nostra Chiara Grandis, il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, che ha detto: ma insomma, queste materie devono essere affidate alle parti sociali, non a iniziative politiche. Sono preoccupato perché da destra e da sinistra vengono iniziative legislative per intervenire sulle materie del lavoro. Regolassero la politica, perché al sociale ci pensiamo noi. E su questo anche Angeletti, sulla stessa falsa riga, il segretario generale della UIL, ha detto: ma insomma, se di queste cose si parla prima con i sindacati e con le associazioni di impresa, Confindustria, ma non solo, è meglio, si evitano danni. Sull'articolo 18, come su altri aspetti che riguardano i rapporti di lavoro, debbono essere discussi e modificati eventualmente solo attraverso il rapporto e il coinvolgimento delle parti sociali. E quando dico parti sociali non dico solo tutti i sindacati, dico anche le associazioni di impresa. Non che il Parlamento non debba fare delle leggi, ma quando fa leggi su queste materie è molto più saggio farle dopo aver coinvolto e magari aver trovato una soluzione appunto attraverso il confronto con chi rappresenta i lavoratori e le imprese e quindi sa determinare qual è il giusto equilibrio tra i diritti dei lavoratori e le necessità delle imprese. Quindi sconsiglierei qualunque intervento legislativo fatto, come dire, in assoluta autoreferenzialità. Allora, su questo faremo anche una puntata con vari economisti del lavoro, gli allievi di Marco Biagi in primo luogo. Sicuramente il tema c'è tutto, affidare le controversie tra datore di lavoro che non ha sempre ragione, non mi scrivete che datore di lavoro ha sempre ragione, per favore, non ha sempre ragione il datore di lavoro, non ha sempre ragione il lavoratore non è sempre una vittima, il datore di lavoro non è sempre un carnefice, attenzione perché sennò iniziamo con i mondi manichei, però è chiaro che per risolvere le controversie sul lavoro affidarsi sempre al giudice potrebbe essere anche un elemento di inefficienza e quindi appunto l'ipotesi dell'arbitrato, di arrivare anche a degli accordi di carattere economico. Dal punto di vista politico mi sembra di registrare che i sindacati e anche l'opposizione dicono: ma vi sembra questo il momento per intervenire su un tema così delicato quando il lavoro viene a mancare? Da un lato, e dall'altro dicono: beh, queste cose però si fanno coinvolgendo le parti sociali, non per disegno di legge. Noi invece cambiamo tema e adesso ci fermiamo qui per quello che riguarda l'Italia. Ci occupiamo infatti di una vicenda che ha preso piede così come analisi, di cui molto si parla, a mio avviso c'è anche un po' di così, colore attorno, e la debolezza della sterlina e soprattutto la debolezza della Gran Bretagna nel suo complesso. (348) 349-238-6666 per i vostri sms. Stavo per dare il mio cellulare in diretta e questo dice lunga sulla così, la fatica delle volte che si fa anche tenere tutto quanto assieme. Allora, la sterlina e la Gran Bretagna improvvisamente diventano un tema di attualità. Che cosa è successo? Insomma, da due giorni che il pound, la sterlina, è sotto pressione, ha perso la soglia per la prima volta del rapporto euro-dollaro 1,50, è 1,37 in questo momento, è minimi da 10 mesi, e soprattutto verso il dollaro che la sterlina è debole, per carità anche sull'euro siamo a 0,90, e lì tutto un giro di voci, ecco, dopo la Grecia, anche il New York Times ha scritto: la Gran Bretagna è alle prese con un debito delle proporzioni della Grecia, se si vuole guardare a un problema di bilancio basta guardare la Gran Bretagna. Questo è un analista di Citigroup, uno dei geni. La media del deficit di circa il 6% del PIL in Gran Bretagna è al 12% ed è solo l'inizio. Mark Sheffield si chiama l'analista di Citigroup, che dice: siamo solo all'inizio del problema britannico. E allora c'è un animale, insomma, che a Mark Sheffield consigliamo di ascoltare, anche perché venendo da Citigroup 15 miliardi di aiuti di dollari di cittadini americani per essere salvata, forse un po' più di prudenza, essere un po' meno soloni farebbe anche bene. Allora, a Mark Sheffield, senza nessun rancore, il nostro gufo di oggi. Pronto? Eccoci. Allora, per quello che riguarda il gufo, l'abbiamo fatto sentire, ci sembra e ci auguriamo che sia veramente solo una gufata, però ne parliamo adesso con il dottor Roberto Mielic, responsabile ricerca cambi Banca Unicredito. Buonasera, dottor Mielic. Buonasera a voi. E anche con Leonardo Maisano, corrispondente sulle 24 ore da Londra. Buonasera, Leonardo. Buonasera a voi. Un paio di minuti di pubblicità meteo e poi le vostre risposte, 349-238-6666 per i vostri sms. (17:37) di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo della Gran Bretagna che improvvisamente diventa secondo il New York Times e secondo l'analista di Citigroup, il problema dell'Europa e siamo solo all'inizio. È vero che il deficit è al 12%, ma insomma, prima di arrivare alla variabile politica con Leonardo Maisano, perché qui la politica c'entra, dottor Mialic, lei che appunto è responsabile della ricerca sul mercato dei cambi, mi sa che per spiegare quello che sta succedendo alla sterlina dovremmo introdurre un termine di quelli che fanno scappare gli ascoltatori, il quantitative easing, che vuol dire... Beh, diciamo, non è solamente quello, nel senso... Beh, prima, diciamo, prima lo spieghiamo, Nat, perché vuol dire che se tu in questo periodo compri valuta dove ti costa poco come tassi di interesse, no? E la sposti dove la valuta, nei paesi dove ci sono alti tassi di interesse, perché il tasso di interesse è il costo del denaro e quindi ci guadagni. Sì, no, beh, diciamo, allora, diciamo questo. Da un lato siamo in una situazione in cui la Banca d'Inghilterra, avendo tassi ufficiali a 0,50, ovviamente non può, non ha più grandi spazi di riduzione del costo del denaro. E quindi questo da un lato spinge la banca centrale a cercare, diciamo così, soluzioni un po' più eterodosse, e questo diciamo viene fatto comprando titoli di Stato. In questa maniera la banca centrale inglese compra titoli di Stato e diciamo crea liquidità. Quindi questo sarebbe un come se fosse un taglio dei tassi implicito. È chiaro che una situazione di questo genere spinge i mercati a considerare monete che hanno tassi di interesse così bassi come lo yen e in parte il dollaro, eccetera, come monete su cui sia facile indebitarsi per andare a comprare monete che hanno invece remunerazioni più elevate, come possono essere, diciamo, il dollaro australiano o il dollaro neozelandese, per non guardare a monete più o meno emergenti. Però questo assomiglia più a carry trade, per usare sempre dei termini tecnici. Infatti, in realtà, diciamo, la parte di quantitative easing riguarda soprattutto il comportamento della banca centrale. Quello che ha caratterizzato quello che ha pesato sulla sterlina, appunto, sono stati da un lato questi aspetti relativi alla banca centrale che quando un po' si pensava ormai conclusa la politica di quantitative easing ha lasciato invece la porta aperta a nuovi acquisti di titoli di Stato. E questo è stato un fattore negativo per la sterlina. C'è la variabile politica, con il fatto che c'è una possibilità di un Parlamento diviso, quindi senza una maggioranza assoluta nelle elezioni che si dovranno tenere entro il prossimo 3 giugno. E poi fattore tecnico che secondo me ha avuto maggiore peso soprattutto in questi giorni, soprattutto lunedì, quando la sterlina ha perso oltre 4 punti o 4 figure, come si dice, nei confronti del dollaro, è il fatto che c'è stato l'annuncio di un'acquisizione o di una trattativa decisamente pesante per circa 35 miliardi di dollari, di cui 25 cash, quindi in contanti, che coinvolge di fatto un'azienda leader nel settore assicurativo inglese e la divisione asiatica di un'altra società leader assicurativa americana. E quindi questo, far passare una trattativa di questo genere importi così ingenti sul mercato ha causato forti ripercussioni Tommiani, ci senta andato per la parte tecnica. Lei ci sta dicendo, praticamente c'è l'incertezza sulla Banca d'Inghilterra che può far ripartire questo carry trade o quantitative easing, cioè acquistare o titoli di Stato per iniettare fondi nell'economia oppure giocare sulle valute. Diciamo in maniera imprecisa, lo so che siamo imprecisi a chi ci scrive, stiamo cercando di spiegare a tutti, se no facciamo una puntata tecnica, lo dico a chi invece evidentemente è più tecnico di noi, però che usi il quantitative easing o il carry trade mi sembrano motivi molto tecnici. La domanda di fondo è questa, Mianic: quando lei poi dà i suggerimenti, ma lei scommette veramente che la sterlina possa continuare a indebolirsi nei confronti del dollaro, soprattutto oltre 1,37 e anche nei confronti dell'euro? Cioè c'è un motivo strutturale fondamentale o sono motivi così, appunto, di mercato tecnico, e quindi possiamo personalmente noi profani anche ignorarli? Onestamente devo dire, cioè la nostra posizione sulla Siria non è assolutamente negativa, cioè noi continuiamo a pensare tutto sommato che gli spazi di recupero per la moneta britannica ce ne siano. Abbiamo diciamo scenari così negativi come quelli che sono stati descritti da lei presuppongono una situazione molto più seria e grave di quella che stiamo vivendo, cioè quelli che si chiamano dei rischi specifici sulla rischi di sistema, possono essere economici, finanziari, bancari e via dicendo. Lo stato attuale non se ne vedono, come stavo dicendo prima, ci sono stati anche dei fattori tecnici che però sono stati alla base del movimento violento che abbiamo avuto in questi giorni, che se sono tali e quindi sono temporanei progressivamente vengono assorbiti. Okay. Tanto è vero che se oggi vediamo anche la sterlina contro dollaro, che qualche giorno fa valeva quasi 1,47, adesso è tornata a quasi 1,51. E dottor Mialici, prima di passare a Leonardo Maisano, mi dice una cosa che non c'entra nulla con la sterlina, ma riguarda l'euro. Sì. Le vostre attese nel rapporto euro-dollaro, oggi siamo a 1,37, diciamo che la Grecia ha portato da 1,45 a 1,37, 1,36, non mi sembra una cosa drammatica, anche perché un euro un po' più debole, come scrivono alcuni ascoltatori, al 349-238-6666, praticamente ci aiuta un po' nelle esportazioni. Diciamo così, chiaramente in questo momento, in un contesto di bassa inflazione europea, l'euro più debole tutto sommato non ha grandissime controindicazioni. Il movimento è stato quasi esclusivamente, diciamo quasi completamente spiegato dai timori che sono emersi sulla Grecia. Ora, le notizie che abbiamo avuto oggi con il nuovo piano presentato da Atene sembrano moderatamente convincenti. Il mercato ha bisogno di un punto d'appoggio per come principio di Archimede per risalire, e in qualche modo oggi i greci gliel'hanno dato. Chiaramente adesso vedremo quanto questa situazione evolve positivamente o è un fuoco di paglia. La sensazione però è che tutto sommato il mercato oggi sembra essere in questi ultimi giorni meno propenso a vendere selvaggiamente la moneta europea di quanto non lo fosse in passato, e questo è un buon segno. Diciamo che se è così non è impossibile andare a riposizionarsi in direzione di 1,40. Allora, grazie Roberto Mialic. Adesso passiamo a te, Leonardo Maisano. Devo rispondere però a alcuni ascoltatori. Allora, abbiamo detto che non possiamo fare un programma tecnico su se pesa di più il quantitative easing o il carry trade. Abbiamo cercato di spiegare, se non ci siamo riusciti, chiedo venia, che comunque da un lato c'è una banca d'Inghilterra che compra titoli di Stato, dall'altra ci può essere una speculazione andata in cui si vanno a comprare le valute che hanno i tassi di interesse dei paesi con i tassi di interesse più alti. Nessuno ha detto che siano sinonimi, mo basta, la borsa ci arriviamo, più 1,4% Milano, più 0,80% Parigi, più 0,70% Francoforte, più 0,90% Londra, l'America guadagna 0,5%. Allora, Leonardo Maisano, al di là dei motivi tecnici di mercato, che penso interessino solo chi ci lavora, sullo sfondo c'è un elemento politico, e c'è questa incertezza a cui già accennava Mialic sulla composizione del Parlamento britannico, e c'è anche un altro elemento che riguarda debito privato e debito pubblico. Partiamo dal primo, l'aspetto politico. C'è un elemento politico che è stato, diciamo così, scatenato da un sondaggio molto attendibile, pubblicato domenica dal Sunday Times, che dava notizia di un avvicinamento delle posizioni tra laburisti e conservatori. Ricordiamo che nell'ultimo anno i conservatori sono sempre stati dati netto vantaggio sui laburisti in caso di elezioni politiche, con 10-12 punti di margine. Improvvisamente questo margine si è ridotto a 2 punti, al punto che questo sondaggio dava vincente il governo uscente, in sostanza il partito laburista, ma senza maggioranza assoluta. Quindi lo scenario più temuto è quello di un Parlamento, come dire, impiccato, senza maggioranza assoluta, al quale gli inglesi non sono abituati. Questo creerebbe una situazione di incertezza, la necessità di fare una coalizione a breve e poi magari di andare a nuove elezioni, in un contesto in cui il risanamento della finanza pubblica è un'emergenza, perché questo paese avrà un deficit del 12,7% del PIL. Quindi è chiaro che questo è stato un elemento che ha spaventato. Allora, il secondo elemento invece è debito e deficit, perché poi abbiamo anche una piccola intervista di Stiglitz, premio Nobel dell'economia, su questo. Te lo farei raccontare dopo il minuto di informazioni sul traffico, e poi passiamo anche alla borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Leonardo Maisano, corrispondente Sole 24 Ore dalla Gran Bretagna. L'elemento politico è chiaro, l'incertezza di un governo che potrebbe non avere una maggioranza stabile o forte comunque. L'aspetto del debito e del deficit, perché tu ricordavi che insomma, la Gran Bretagna ha un deficit che è al 12,6% del PIL. Siamo a livelli greci, ora senza volersela tirare addosso. Ma il debito e la lezione con cui si esce da questa crisi sul fronte debito pubblico e debito dei privati? Dunque, il debito pubblico è attorno al 60%, quindi non è un debito particolarmente preoccupante, nonostante la dinamica vada rapidamente verso il 90-95% nel volgere di qualche anno. Il problema inglese è che c'è un debito privato in senso lato, cioè sia delle imprese, siano esse finanziarie e non, e un debito privato dei cittadini molto elevato. Volendo considerare tutto questo, ed è un modo per alcuni opinabile, per altri no, ma comunque un modo per calcolare anche l'indebitamento di un paese, l'Inghilterra ha un indebitamento che è un multiplo del prodotto interno lordo, arriviamo al 350-380% del PIL. Questo è un elemento che dopo questa crisi, dopo il credit crunch, comunque è diventato un elemento che viene tenuto in considerazione. Non necessariamente si può legare alla svalutazione della sterlina, è comunque un elemento, come dire, di incertezza sullo stato della finanza britannica. Grazie Leonardo Maisano in collegamento con noi da Londra. In effetti devo dire, sapete che noi non siamo sempre così agiografici con il ministro Tremonti, ma il ministro Giulio Tremonti da tempo va sostenendo che per guardare la situazione italiana si deve mettere assieme il debito pubblico, che è da record, 117% del PIL, ma con il nostro risparmio, anche quello da record, sommando le due cose, e poi il debito anche delle corporate. L'America viaggia intorno al 400%, se si sommassero queste cose, del PIL. La Gran Bretagna 380, noi, se non ricordo male, siamo messi anche meglio. Comunque adesso la borsa e i titoli che oggi più si sono mossi. Allora, più 1,4%, soprattutto Unicredit oggi e CIR più 4,70, Unicredit più 4,20, Fondiaria bene come tutti i bancari assicurativi più 3,5, Banco Popolare più 2,70, ancora Unipol più 2, Intesa più 1,70%, Monte dei Paschi più 1,40%. Questo per quello che riguarda il settore bancario e assicurativo, da cui partiamo con Paolo Paronetto. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Unicredit e le banche. Sì, oggi per le banche è stata una giornata positiva in tutta Europa. Il sottoindice di comparto a livello continentale ha guadagnato circa 1,5%. Ovviamente il tema è quello della Grecia, l'incertezza sul fronte greco e i timori per un possibile contagio avevano penalizzato nelle ultime settimane i titoli, soprattutto i titoli finanziari, che oggi all'annuncio delle misure messe in campo dal governo di Atene e giudicate proprio in questi minuti molto solide dal Fondo Monetario Internazionale, oggi quindi il comparto ha recuperato terreno. In particolare in Italia ha guadagnato, come ricordavi tu, oltre il 4% Unicredit, che d'altra parte beneficia anche dei conti diffusi dalla controllata polacca Pekao. Mm-hmm. E ovviamente l'Est Europa è sempre un punto interrogativo, in positivo o in negativo per Unicredit secondo gli analisti finanziari. I conti Pekao sono stati migliori delle attese, quindi il titolo Unicredit ne ha beneficiato. E poi il miglior titolo del S&P MIB sono le CIR, più 4,70%, anche qui conti, anche qui di una controllata Sorgenia, immagino. Sì, esattamente, ieri i conti di Sorgenia, pur giudicati non esaltanti dagli analisti, però hanno evidenziato una tenuta sia per quanto riguarda i ricavi che per quanto riguarda i margini, quindi il titolo ne ha approfittato per recuperare parte del terreno che aveva perso nelle ultime settimane, che per il titolo CIR sono state abbastanza di debolezza. Il titolo è stato in rialzo per tutta la seduta e ha chiuso in testa al FTSE MIB con un rialzo del 4,69%. Ancora tra i titoli Fiat, di Fiat parleremo ampiamente dopo, perché è arrivata una conferma da parte di Sergio Marchionne che si discuterà il prossimo 21 aprile nel Consiglio di Amministrazione dell'ipotesi spin-off, cioè separazione del settore auto dal resto del gruppo Fiat. Questo chiaramente il mercato lo accoglie con favore, più 1,6%. Altri titoli sul fronte Telecom, mi sembra che si torni a parlare di uno scorporo, anche qui più 1,2%. Esattamente, il titolo è sotto riflettori dall'inizio, alla fine ha chiuso più o meno in linea con il listino. Oggi sono tornate, sono state riportate dalla stampa nuove ipotesi di scorporo della rete o di uno spezzatino che è chiamato ormai dalle cronache un piano B rispetto a quello della fusione con Telefonica. Non ci sono novità concrete, la Repubblica parla di un incontro nei giorni scorsi tra l'amministratore delegato di Intesa San Paolo Corrado Passera e il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi proprio per parlare dell'ipotesi di uno scorporo della rete. In attesa di novità il titolo in borsa rimane sotto i riflettori, oggi ha guadagnato ancora l'1,22%. Ancora Luxottica, peggior titolo, meno 1%, insomma non piacciono questi conti diffusi lunedì. Esatto, la società ha diffuso lunedì i risultati e da quel momento ha perso terreno, ieri ha lasciato proprio sul terreno il 4,46%, oggi è di nuovo la peggiore del FTSE MIB, ha perso lo 0,96%, secondo gli analisti a penalizzare il titolo sono soprattutto le previsioni per il 2010 che sono state giudicate un po' troppo prudenti, degli analisti di mercato si aspettavano previsioni un po' più aggressive e quindi gli investitori in queste due sedute hanno penalizzato il titolo che comunque in attesa dei conti la settimana scorsa aveva guadagnato terreno. Ancora i migliori peggiori, Icon più 11,4%, Bioera più 9,6%, Prima Industrie più 8,7%, Ratti più 7,7%, e tra i peggiori citiamo Ceramiche Ricchetti meno 5%, Investimenti e Sviluppo meno 4,40%, P Quadro meno 3,64%. Per cento l'America sta guadagnando mezzo punto percentuale. Grazie Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24. Vabbè, ascolteremo le previsioni del Premio Nobel dell'Economia su come sta reagendo l'Europa e su cosa dovrebbe fare l'Europa per affrontare una crisi come quella che ha coinvolto la Grecia, sulla tenuta dell'euro. Poi parleremo dell'ipotesi Fiat che va a discutere di dividere tra Fiat Auto, che immaginiamo abbia anche Chrysler dentro, quindi una Fiat auto molto più internazionale rispetto al resto del gruppo Fiat, e poi sentiremo i punti principali del botta e risposta tra Giulio Tremonti, ministro dell'economia, e Pierluigi Bersani, segretario del PD. 349-238-6666 per i vostri sms, chiaramente i punti principali dei temi economici. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo esserci occupati delle proposte, anche così dei rilievi mossi dai sindacati per quello che riguarda la riforma, anzi il disegno di legge che è addirittura d'arrivo per modificare il modo in cui vengono regolate le controversie tra datore di lavoro e lavoratori. L'abbiamo parlato nella prima ora del programma, non possiamo tornarci adesso. Dopo aver toccato il tema della sterlina e anche dei problemi complessivi che deve affrontare la Gran Bretagna, aver commentato una giornata di borsa positiva, ripeto, più 1,4%, UniCredit è la banca migliore ed è il secondo miglior titolo grazie ai conti della contratta polacca Pekao, più 4,2%. Ora parleremo prima del giudizio del premio Nobel dell'economia Stiglitz su quello che sta capitando alla Grecia e all'euro, e poi della vicenda Fiat, e poi anche faccia a faccia Bersani Tremonti. Allora, Stiglitz, premio Nobel dell'economia del 2001, così commenta il modo in cui l'Europa, l'area euro, dovrebbe reagire e per affrontare una crisi come quella che ha colpito la Grecia. Penso che sia assolutamente evidente la totale mancanza di fiducia in questo momento. Uno degli elementi di maggior disturbo non penso sia costituito dagli hedge fund, quanto dalle voci sulle operazioni di Goldman Sachs mentre era consigliere del governo greco. Episodi come questo sollevano dubbi sul ruolo degli advisor. E anche l'attività che gli hedge fund hanno portato avanti nei confronti della Grecia e che ora si stanno riducendo ha sollevato dubbi su ciò che realmente sta accadendo. Ci si domanda quale sia lo scopo degli attacchi speculativi, se si sta cercando di distruggere un paese o di creare instabilità per trarne profitto. In Europa c'è un ampio dibattito sulla regolamentazione finanziaria e sul fatto che i credit default swaps possano creare molta instabilità. Credo che ciò che succede sia che non è l'attività di un solo hedge fund a influire sul mercato, quanto l'azione, coordinata o meno, di più hedge fund diretta su un paese in particolare. Per ciò che riguarda l'euro e le possibilità di uscita di un paese dalla moneta unica, è una questione a cui noi economisti abbiamo sempre pensato fin dalla nascita dell'euro. Penso che, in generale, non si siano mai messe da parte abbastanza risorse per i momenti di difficoltà che potevano coinvolgere alcuni paesi. Spero che per la stabilità dell'euro questa crisi serva a stabilire nuove linee guida per affrontare difficoltà simili. In caso contrario, le preoccupazioni sull'euro continueranno ad emergere. Tra gli economisti questo tipo di dibattito è presente da tempo, ma credo non abbia ancora raggiunto la sfera politica e decisionale. Allora, già altre volte, quanto ricordava adesso Stiglitz, è stato definito come, insomma, la tecnica del branco di lupi che si concentra tutti i vari, i più importanti hedge fund contro un paese. Noi molto più banalmente ci siamo permessi di dire che Goldman Sachs, che prima ha aiutato la Grecia a truccare i conti con la finanza creativa, con le cartolarizzazioni, i derivati, e adesso sta speculando che la Grecia potrà, o ha speculato assieme ad altri, sul fatto che la Grecia possa uscire dall'euro, ricorda un po' uno che ti rompe il parabrezza e poi ti lascia il biglietto sul vetraio, ecco. Sul vetraio a cui rivolgersi. Il mercato dell'auto, interessante. Oggi di auto invece parliamo, non perché c'è il Salone di Ginevra, ma perché dal Salone di Ginevra il numero di Fiat, Sergio Marchionne, ha detto, va bene, il mercato tornerà a una, andamento normale, una normalizzazione del mercato, per avere questo livello bisognerà attendere il 2013, o meglio 3-4 anni. E poi con Peugeot ha negato che vi sia qualcosa di nuovo, ma soprattutto ha detto una battuta su una vicenda che si chiama spin-off del gruppo Fiat, ossia l'ipotesi di separazione del settore auto dal resto del gruppo Fiat. Ha detto è un tormentone, ne parleremo il 21 aprile quando ci sarà il consiglio di amministrazione, presenteremo il piano di sviluppo del gruppo Fiat. Tanto è bastato per scatenare il mercato. Allora, Andrea Malani in collegamento con noi da Ginevra, buonasera. Buonasera a tutti. Il mercato, prima leggevamo anche l'andamento di Fiat più 1,6%, l'ha letto come una missione che è un'ipotesi allo studio, quella di separare il settore auto dal resto del gruppo. Diciamo che l'ipotesi è allo studio da parecchio, finora appunto non ha superato la fase di studio, anche se c'è stato un momento, ricordano forse anche gli ascoltatori l'anno scorso, quando Fiat progettava anche di unirsi a Opel oltre che a Chrysler, c'è stato in quel momento in cui uno scorporo dell'auto Fiat è sembrato una realtà un po' più vicina. Adesso solo con Chrysler Fiat Auto ha risolto una parte dei suoi problemi dimensionali, ma ha un grosso impegno da realizzare, cioè risanare la casa americana e portare a un'integrazione maggiore fra le due aziende. Quindi diciamo c'è molta carne al fuoco dal punto di vista manageriale, e come hai ricordato tu prima, il mercato europeo non è certo nelle condizioni migliori per indurre gli investitori ad accogliere un nuovo titolo nel settore auto, anche se molti dei titoli del settore l'anno scorso hanno fatto ottime performance, diciamo, in termini di borsa. Quindi Marchionne ha rinviato alla data del 21 aprile in cui presenterà un piano per i prossimi 5 anni, probabilmente in quel piano sarà compresa anche l'ipotesi dello scorporo, ma sappiamo benissimo che il manager è estremamente pragmatico, quindi se dovesse verificarsi una possibilità, presentarsi una possibilità di scorporo a condizioni favorevoli anche prima, non esiterà a farlo. Ecco, chiariamo anche per gli ascoltatori che scrivono al 349-238-6666 che cosa eventualmente vorrebbe dire uno scorporo. Non c'è nessuna cessione o vendita, si tratterebbe, Andrea, stiamo ragionando di ipotesi, quindi diciamo stiamo scrivendo sull'acqua, quello che diciamo, si tratterebbe di unire la parte auto dell'intero gruppo, quindi anche Chrysler, in una società. Sì, diciamo che da un lato si tratterebbe di separare Fiat Auto dal resto del gruppo, anche come società. Nella Fiat Auto rimarrebbe la quota in Chrysler, che ricordiamo attualmente è del 20%, ma è destinata a salire fino al 35% e in futuro magari anche fino al 51%. E è probabile, estremamente probabile, che nel caso di questo, in un caso di questo tipo, poi questa nuova società con dentro Fiat Auto e la quota Chrysler venga messa sul mercato e porti a quel punto a una diluizione degli attuali azionisti Fiat. Grazie, staremo a vedere. L'appuntamento è al 21 aprile al CDA e appunto quando verrà presentato il piano per i prossimi 5 anni. Grazie Andrea Malani in collegamento con noi da Ginevra. Il traffico e poi il faccia a faccia Bersani Tremonti 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti, allora dicevamo del faccia a faccia tra il ministro dell'economia Giulio Tremonti e il segretario del PD Pierluigi Bersani, un faccia a faccia tutto giocato sui temi dell'economia, anche perché come molti di voi ricorderanno lo stesso Bersani è stato ministro dell'industria e poi dello sviluppo economico nei vari governi Prodi a cui ha partecipato, quindi era presumibile che i temi fossero quasi tutti economici. Si è parlato molto di fisco e da lì partiamo. Ha detto infatti il ministro Tremonti è arrivato il tempo di iniziare un processo di riforma fiscale. Il sistema attuale è poco giusto, è stato disegnato negli anni 60, messo attuato negli anni 70, poco efficiente, poco giusto. Su questo va detto che c'è stato forse l'elemento di condivisione più forte, chi ha studiato dice bipartisan, perché Bersani ha detto siamo pronti a discutere una riforma fiscale anche domani, qualora il governo fosse d'accordo, purché sia chiara la posizione del governo. Bersani poi ha proposto una Maastricht contro l'evasione, cioè una Maastricht per la fedeltà fiscale, anche se questo non fa ottenere consenso, ma permetterebbe di abbassare la lotta contro l'evasione fatta su base europea, di abbassare le tasse sul lavoro dipendente. Fra l'altro, uno che vuole aggiustare l'IRAP, 7 anni su 9 hanno governato, ci avevano il tempo, avremmo potuto discutere, insomma, no? E quindi, diciamo, fra macrofilosofie e annunci pubblicitari, cerchiamo di fare un discorso di verità. E il primo punto del discorso di verità è questo: noi non possiamo immaginare nessun concetto di riforma, di alleggerimento fiscale, eccetera, senza toccare il tema della fedeltà fiscale. Io lo so bene che chi mette mano a sta cosa rischia il consenso, ma se non metti mano a questa cosa, questo Paese non può raddrizzarsi. Conti alla mano. Quando sei in una situazione in cui, davanti alla crisi che abbiamo, spero che poi ne parleremo perché non sono bazzecole, quando tu hai il meno dell'1% dei contribuenti che denuncia 100.000 euro, vuol dire che si sta diffondendo un egoismo sociale micidiale. Vuol dire che c'è gente che pensa che la carretta devono tirarla solo alcuni, che il carico del fisco deve andare solo ad alcuni, che gli altri se ne tengono fuori e quegli altri lì usano la scuola, usano la segnaletica stradale, usano l'ambulanza, che io li lascerei a piedi, perché è una vergogna che davanti ai problemi drammatici che ha sto Paese, anche sociali, si diffonde un egoismo sociale di questa natura. Non è possibile. E quindi questo è un primo richiamo civico, siccome penso che questo Paese si salvi su alcune parole basiche che sono lavoro, onestà, serietà, regole. E bisogna partire da lì. Ma noi vogliamo arrivare alla media di fedeltà fiscale europea o no? Vogliamo fare la Maastricht della fedeltà fiscale europea o no? Col margine del 3%. E vogliamo destra e sinistra mettersi d'accordo su questo o no? O ciascuno lucra consenso, pensi lucrare consenso sull'evasione? Se non partiamo da qui, noi non andiamo da nessuna parte. Così appunto il leader del PD Pierluigi Bersani sul tema dell'evasione fiscale, il dato dell'1% degli italiani che dichiara più di 100.000 euro lordi l'anno, l'abbiamo riportato molte volte, è un dato assolutamente noto. Su questo il ministro Tremonti ha risposto, ha detto insomma la tracciabilità delle spese o i pagamenti oltre i quella introdotta dal ministro Visco, cioè assegni e carte di credito e abilità del governo, non è comunque una soluzione alla tracciabilità. Occorre un patto anche con i comuni. Quello dell'evasione è un fatto strutturale, fondamentale, che va gestito come tale. Io non credo, e lo dico magari non incontrando il vostro consenso, non credo che la soluzione sia quella di imporre per i pagamenti sopra i 100 euro il passaggio dalla banca, dall'assegno o alla carta di credito. Ho sentito dire tante volte in America è così. È vero, in America se giri col contante chiamano l'FBI, ma ci sono alcuni dettagli, e cioè dire, primo, in America quello è un uso diffuso e non è un obbligo fiscale. Non c'è una legge che ti impone di usare la carta di credito, non c'è una legge civile e non c'è una legge fiscale. Non solo, in America le carte di credito in realtà sono carte di debito e quindi la diffusione di quello strumento non è per farti pagare le tasse, ma per tirare a campare un po' meglio di quello che se no sarebbe. Quindi, andare a imporre, come sarebbe adesso se quella norma non fosse stata abrogata, che i pagamenti sopra i 100 euro si fanno passando dalla banca, mi sembra francamente la via sbagliata. Perché è una via che non rende minore l'evasione, ma rende odioso lo Stato. Perché se tu per andare a comprare le scarpe devi usare il libretto degli assegni, beh, si vede che non si capisce com'è fatto il nostro Paese, nel bene o nel male. Qual è lo strumento fondamentale per battere l'evasione fiscale in un paese che ha 8 milioni di partite IVA e 8.000 comuni? Fare partecipare i comuni all'accertamento delle imposte. Questa quindi è la soluzione proposta dal ministro Tremonti, non la tracciabilità dei pagamenti, ma la compartecipazione dei comuni, è un tema su cui Tremonti già altre volte è tornato. Al contrasto all'evasione fiscale, perché se partecipano anche loro alla riscossione sono più attenti e conoscono, altro ragionamento che facciamo ascoltare qualche settimana fa sempre del ministro Tremonti, conoscono meglio la situazione sul territorio e diciamo degli ispettori comunali, gli ispettori fiscali di carattere comunale avrebbero ancora maggior presa conoscendo il territorio e i vari contribuenti di quanto non possono fare gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate, che arrivano da Roma o che comunque sono meno presenti nelle realtà piccole o piccolissime. E poi la crisi, anche qui botta e risposta, perché il leader del PD Bersani è tornato sul tema. Insomma, questo governo o dice che la crisi c'è e la smette di dire che l'Italia è messa meglio di altri, oppure ci raccontasse che la crisi è per l'Italia debole, allora si può anche non fare niente, ma se la crisi c'è, questo è il senso del ragionamento di Bersani, allora troviamo le risorse, perché un paese come il nostro le risorse le può trovare. Io non capisco perché nel pieno di una recessione così noi dobbiamo abbassare la soglia di investimenti. Io dico investimenti subito, grande piano di piccole opere, economia verde, cioè insomma non sto dicendo che risolviamo la crisi, sto dicendo diamoci una mossa, diamo un minimo di stimolo all'economia reale, cerchiamo di affrontarla meglio. Dice dove troviamo i soldi, non faccio l'elenco di dove li abbiamo messi, potrei farlo, però tutto dipende dal giudizio. Se è una nuvola passeggera possiamo star così salvo un po' di ammortizzatori, ok. Se l'analisi è bisogna intervenire, perché non dico che c'è un'emergenza, ma c'è un passaggio molto delicato e la priorità è quella, non mi si dica che non si trovano i soldi, quando adesso non mi faccio dire la prima battuta a me, perché tocca a un governo che dica c'è il problema, ma per Bacco un paese come questo non è in condizione però di avere se mi dà un'iduzza mi farebbe piacere. No, perché vai fuori e a dire subito che voglio alzare le tasse, le avete alzate voi le tasse, ecco. O facciamo bevuta pari e allora discutiamo, a bevuta dispari non discuto, perché abbiamo già visto troppe volte sto film. Se venite in Parlamento dici, hai mercoledì l'occasione, vieni lì e dici c'è il problema, dobbiamo tirar fuori tot soldi per fare A, B, C e D, discutiamo cosa fare e discuto anche come fare a trovare i soldi. Se invece venite a dire che va tutto bene, io se va bene io cosa vuoi che faccia? Farò l'opposizione, non bisogna che mi rassegni. E questo è il concetto fondamentale, è questo qua. Così il leader del PD Bersani, la risposta del ministro Tremonti, che dice attenzione, non è dallo stimolo della domanda che si esce dalla crisi. Non puoi immaginare che la politica e il governo sostituisce la caduta della domanda mondiale, devi capire cosa è successo e cercare di gestire. Dice Bersani la politica industriale. Per me politica industriale vuol dire detassare gli investimenti, significa organizzare i fondi alle piccole e medie imprese, fondi di garanzia, tentare di tenere in piedi quanto più possibile la domanda, non aumentare le tasse, cosa che altri hanno fatto. E quando mi si dice la pressione fiscale è salita, primo non è vero, secondo se conti dentro i soldi del rimpatrio e dello scudo, non è un aumento della pressione fiscale. Magari è una cosa che non va bene, non lo so. Dite Bobis, però fondamentalmente non calcolarla come pressione fiscale. Così, Ministro Monti, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barigioni, l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.